Ora come allora, rumori lontani e soffusi, cose perse e acquisite, ma il tempo è veramente andato. Puoi trascrivere ogni minuto, puoi trasmettere messaggi, quello che sai è che pochi capiranno le sottili analogie, tra l'altezza più sublime e il più profondo baratro. Ora come allora, granelli di polvere in un raggio di sole che fa breccia dal di fuori, ma non è tutto uguale. Solo ora, frammenti di passato viaggiano dentro di me in un'unica direzione.